It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Venerdì 24 dicembre, buongiorno, bentornati a tutti i nostri ascoltatori su Liberi Dentro, Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E do il buongiorno, io non sono sola, vedete che ci sono tante persone della redazione di Liberi Dentro Eduradio oggi, la mia collega Antonella Cortese, ciao Antonella. Ciao a tutti. E poi c'è Paolo Leotti, Ignazio De Francesco, Diana Bota ed Enea Flacco. E però prima di dar la parola a ognuno di loro, che è anche un'occasione per noi oggi per farvi gli auguri natalizi, gli auguri delle festività, la casellina del nostro calendario dell'avvento ha come ospite l'imam Hamdan Al-Zekri, che forse come molti di voi sanno dal 2017 è alla guida del carcere di Sollicciano, una guida spirituale islamica. Lui ha voluto rivolgere i suoi auguri a tutti i detenuti del carcere della Dozza e alle carceri dell'Emilia Romagna. Ascoltiamolo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La pace e la misericordia di Dio sia con voi e con ogni persona a voi cara. Ci tengo a salutarvi con il saluto islamico. Cari fratelli e care sorelle, colgo l'occasione per inviarvi i miei migliori auguri di buone feste, di buon Natale. Sicuramente questo Natale a memoria della maggior parte delle persone è diverso, perché ancora viviamo questa fatica che ha causato questo virus. Quindi preghiamo sommamente clemente misericordioso che faccia scomparire questo virus, ma anche lo preghiamo affinché faccia incrementare e crescere la nostra misericordia, gentilezza, ma anche cura degli altri. È un invito a tutti quanti noi di riscoprire la tenerezza, ma anche di ricostruire il legame fra le persone, legame con i parenti, legame con i nostri vicini di casa, ma anche di riscoprire l'essenziale della vita, perché non possiamo dimenticare la fortuna che abbiamo, che viviamo in un paese di pace, un paese di dialogo, di confronto, ma anche di comprensione e di cultura. Per cui dobbiamo tutti quanti noi collaborare insieme affinché tutti questi doni, tutti questi sacrifici di tante persone prima di noi hanno lavorato, che continuano oggi a lavorare, tutti noi abbiamo la responsabilità di custodirle, ma anche di farli crescere in ogni città, in ogni quartiere, in ogni casa. Tanti, tanti auguri di un Natale felice, pieno di salute, amore e tenerezza. Auguri. E rieccovi, dopo gli auguri di Hamdan, do subito la parola a Ignazio De Francesco, che è volontario dell'AVOC, molti di voi lo conoscono, alla Dozza di Bologna, ma è anche un grande studioso della cultura e delle tradizioni islamiche, a cui chiedo per l'appunto, Ignazio, come lo vedi tu questo messaggio di Hamdan, perché sappiamo che la festa del Natale è universalmente riconosciuta e anche per le persone islamiche è un modo per essere in contatto con i fratelli e le sorelle cristiane, no? Ma io direi, guarda, che innanzitutto anch'io saluto tutti quelli che ci ascoltano, dico anche in arabo salam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, gli amici e le amiche di fede islamica. Certo, Gesù è apprezzato, stimato, onorato come profeta nell'Islam. Noi abbiamo anche la sua nascita, l'annunciazione a Maria e la sua nascita presente nel Corano. Abbiamo anche un presepe islamico, cioè la nascita di Gesù sotto la palma. I musulmani sono molto prudenti a mettere qualsiasi cosa che non sia all'interno delle loro feste, che sono poi la festa del sacrificio e la festa del fine di Ramadan, quindi bisogna essere molto rispettosi. E tuttavia riconoscono l'onore dato a Gesù, e poi all'interno della cittadinanza io credo che farsi gli auguri, ecco, per le reciproche feste sia un atto, se non religioso, di rispetto, di amicizia e di vita nella comune città. Benissimo, grazie Ignazio. Io a questo punto volevo fare una domanda a Paolo Aleotti, e forse voi non lo sapete, ma Paolo Aleotti ci sta supportando, ci sta seguendo ed è nella nostra redazione ormai da un po' di tempo, ma la cosa importante che fa Paolo è che fa tele radio reporter al carcere di Bollate, giusto Paolo? Sì, giusto. Ecco, che ci racconti su questa realtà? Beh, visto che siamo sotto Natale, approfitto naturalmente anch'io per dare gli auguri per queste festività a tutti e a tutte le detenute della Dozza, del Reggio Emilia e di tutta Italia naturalmente. E ti dico che lì all'interno di Bollate, per esempio, abbiamo fatto una serie di piccole iniziative, e hanno fatto soprattutto detenuti e detenute, che però rafforzano questa idea di una specie di famiglia all'interno del carcere. E per esempio al femminile le ragazze si sono così mobilitate perché hanno scoperto che alcune di loro, soprattutto da un po' di tempo a questa parte, sono molto povere e non hanno neanche i soldi per comprarsi la pasta, il pane, le cose, e quindi hanno fatto una piccola colletta tra di loro, hanno messo assieme, noi gli abbiamo dato una mano come Carte Bollate con il giornale che facciamo, 10 pacchi dono per le più bisognose che in questi giorni consegneranno in una piccola festa. Contemporaneamente tutte le iniziative, diciamo così, alternative che esistono dentro il carcere di Bollate in questi giorni sono state presenti nei mercatini di Natale, che sono stati fatti lungo un lunghissimo, infinito corridoio di Bollate, dove erano presenti tanti, diciamo così, detenuti e detenute che vendevano, regalavano, mostravano le cose che sanno fare durante l'anno e che per loro sono veramente importanti. C'era anche la band, una delle 4 band musicali di Bollate, e c'era soprattutto uno spirito profondissimo, c'erano vicini gli agenti della polizia penitenziaria con detenute e detenuti e persone che venivano da fuori, sono venute almeno 500 persone per curiosità, per guardare. Era vietato ai familiari di venire perché ovviamente non doveva essere un'occasione in più, era una cosa diversa per mostrare questo carcere all'esterno. E questa è una cosa veramente molto importante che credo che valga anche come spirito natalizio. Grazie Paolo, e passo il nostro testimone, ecco, il nostro microfono a Diana Bota, che è la nostra tirocinante, anche lei già da qualche mese su Liberi Dentro Dura di TV, e ti chiedo Diana, siccome tu hai fatto rubriche che molti di voi hanno visto, si chiamano Libri Dentro, con questa E in mezzo che significa liberi dentro attraverso la cultura, e anche il documentario Libero sulla collina, ti chiedo come mai hai scelto un tirocinio che avesse il carcere come fulcro della sua attività. Grazie Caterina. Sì, io ho scelto questo tirocinio perché è sicuramente un tirocinio inedito e abbraccia un po' due ambiti che a me interessano molto, ovvero il sociale e la comunicazione. Visto che io sto studiando, sono alla magistrale di editoria e giornalismo e faccio parte di un'associazione di volontariato a Reggio Emilia, diciamo che Liberi Dentro riassume un po' questi due ambiti in cui lavoro già da qualche anno. E soprattutto vi ho conosciuti, tra l'altro, grazie a un contatto tramite il Centro Interculturale Mondi Insieme di Reggio Emilia. Quindi così facendo anche Reggio Emilia entra in Liberi Dentro. Grazie mille Diana. E io in verità voglio scoprire finalmente, anzi voglio accendere la telecamera ad Enea Flacco, perché voi vedete che lui lavora dietro le quinte, sempre a montare, a cambiare, a tagliare. Enea, che cosa ci dici tu? Come mai sei approdato da noi, tra l'altro? Pensa un po'. Beh, anzitutto perché credo che sia fondamentale trovare non solo degli ambiti di cui si è interessati, ma degli ambiti che comunque possano fare dei cambiamenti tangibili in bene. E credo che appunto il lavoro che facciamo come come Eduradio sia fondamentale, abbia delle premesse bellissime e delle potenzialità bellissime. E quindi io sono molto soddisfatto perché appunto coniuga queste due cose, coniuga sì i miei interessi personali, individuali, nella tecnologia, nel montaggio, in tutto ciò che insomma è il medium computer, il medium tecnologia, tutto questo e la comunicazione che ha citato anche Diana appunto, con anche un'altra cosa che ha citato Diana, il sociale, di cui anche io mi sono occupato molto spesso in quanto io appunto mi sono avvicinato al progetto inizialmente come volontario, in quanto vicepresidente di un'associazione che ha collaborato e che collabora con Eduradio, e poi niente, come si suol dire, il resto è storia. Enea, grazie, e vi ringrazio tutti, è stato bellissimo poter fare questo buongiorno insieme, vorrei che ci fossero più occasioni di questo tipo, anche per presentare la nostra squadra che è strettissima ma fortissima, ma che vive anche di collaborazioni preziosissime, penso a tutti gli enti, le associazioni di volontariato, le associazioni assistenziali che entrano all'interno del carcere, l'ASL di Bologna, l'ASP, i teatri e tutto ciò che, l'AVOC, il Poggeschi, tutto ciò che ci ha accompagnato fin dagli inizi fino ad adesso. Quindi una canzone prima di passare all'ospite di oggi, rimaniamo con Sam Smith, Have Yourself a Merry Little Christmas, e ci rivediamo tra pochissimo. Grazie. Troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV. Proseguiamo l'intervista con Suora Elisabetta Stocchi del Centro Asteria di Milano, già da alcuni giorni con noi ospite su Liberi Dentro. C'è una parola che noi che facciamo Eduradio torna molto spesso nei nostri dialoghi anche con gli ospiti, ed è la parola che alcuni detenuti ogni tanto, io lo capisco, storcono il naso quando la sentono, ed è il reinserimento, la rieducazione sociale, e che dovrebbe essere ciò a cui la pena dovrebbe tendere, ed è per questo che le persone storcono il naso, perché molto spesso, purtroppo lo sappiamo, non è così, cioè l'istituzione carceraria non garantisce questo, molto per il sovraffollamento, devo dire, che è stata una delle cause principali. Ma io ti chiedo, come centro culturale, voi perseguite questi obiettivi di reinserimento e rieducazione? Sì, diciamo che condividiamo con altre istituzioni il desiderio, e se ci sono, capitano delle opportunità di dare disponibilità, sì. E tutto questo è sempre dentro quella rete, no? Necessaria del tessuto, che, del terzo settore, che è veramente importantissimo, che fa tanto. magari non si conosce, non si conoscono le attività, ma quando ci si riconosce, e come ho detto in una puntata precedente, il nostro municipio è molto vivace, ha creato questi tavoli dove piano piano c'è una mappatura consapevole di queste risorse. Bene, la Steria pure ha un'attenzione, ma un'attenzione ancora una volta legata a degli incontri. In Asteria qualche anno fa abbiamo invitato Agnese Moro, la figlia dello statista Aldo Moro, per una testimonianza. Come ho detto nelle altre puntate, noi lavoriamo molto sulle testimonianze. E questa testimonianza era appunto sulla sua esperienza in quanto figlia vittima appunto di quella che è stata, diciamo, il primo lutto nazionale così forte, quello dell'uccisione di Aldo Moro. Bene, lei è venuta, ha fatto tre anni, è venuta, ha fatto la sua testimonianza sempre così veramente potente. In alcune occasioni abbiamo vissuto anche proprio dei momenti catartici della gente, perché se la figlia aveva perdonato, era riuscita a riconciliarsi con una cosa così drammatica, come poteva il cittadino comune non sdoganare quella rabbia contro il periodo storico, contro le brigate rosse, contro... Bene, dopo tre anni Agnese ci presentò Franco Bonisoli, che poi è diventato un carissimo amico del centro anche lui, e una di quelle persone con le quali costruiamo il progetto Qualità. Anzi, quest'anno ne abbiamo una molto forte, un percorso proprio dedicato ad alcune scuole sulla giustizia riparativa. E Aldo Bonisoli è un brigatista, un ex brigatista, che ha scontato tutta la sua pena e che poi ha avuto l'opportunità di fare un percorso sulla giustizia riparativa con... scusa, mi aspetto un attimo, non perché c'è la... sono le sole che... Ah, io non sento niente, sai. Ah, meno male. Okay. Ah, ok. Stavo dicendo di Franco Bonisoli, senza ripartire. Ah sì, per cui Agnese Moro ci propose appunto di incontrarci e di fare un evento, un incontro, una testimonianza proprio con Franco Bonisoli. E Franco Bonisoli faceva parte del comando che era qui, Aldo Moro, uccise la scorta di Aldo Moro e poi ne decretò anche la morte. Bene, Franco Bonisoli ha pagato la sua pena, ma poi ha avuto l'opportunità di appunto fare un percorso di giustizia riparativa, un percorso che lui considerava da profondo e che è stato proprio fatto in dialogo con Agnese. Bene, e Franco è venuto qui, abbiamo condiviso questa grande opportunità per i ragazzi, perché ogni anno riproponiamo anche in modo diverso. Franco adesso negli anni sta venendo con Mario Milani, che è il rappresentante dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Piazza della Loggia di Brescia, e Guido Bazzeca, continuano a fare la loro testimonianza, parenti delle vittime e coloro che sono stati i promotori di scelte che oggi vengono rilette in modo critico, per i quali comunque hanno avuto l'opportunità di incontrarsi in questo percorso che non è di giustizia per pagare la pena che purtroppo o comunque viene pagata ed è decretata da un processo, ma per un qualcosa di più profondo. Bene, sono andata fuori tema, però Franco, con Franco si è creata una grandissima amicizia e poi lui è stato a dirmi: guarda, c'è un altro Franco che era in carcere con me che deve fare appunto il percorso di reinserimento, per cui deve andare sui lavori, ma non è che qui potreste. Ed è arrivato Franco Milone, una persona amabilissima, una persona che è diventata subito della famiglia, una persona con la quale che continua a lavorare da noi, a dare il suo contributo, e con la sua genialità, con quello che è, con il suo oggi, con la sua possibilità di poter ricominciare, perché questa è la cosa importante. È questo che credo che oggi in modo particolare vorrei dire, cioè qualunque sia la pena, qualunque sia stata l'azione che uno ha fatto sbagliata, c'è la possibilità, c'è l'opportunità di poter ricominciare. Elisabetta, io ti chiedo, siccome la nostra intervista capita proprio nei giorni forti delle festività, noi chiamiamo delle festività perché naturalmente le carceri sono ricche di culture diverse, non per tutti è il giorno di Natale, magari per alcuni è il giorno in cui si aspetta la visita di un parente che a volte non arriva. Quindi io ti chiedo di rivolgere un saluto a tutte le persone ora in questo momento detenute che ci stanno ascoltando. Beh, non posso che dire che con il Natale si festeggia l'Emanuele, il Dio con noi. Ragazzi, ragazze, è vero, il nostro Dio è un Dio di misericordia, un Dio di un amore tenero, paterno, materno, che non si è tirato indietro di fronte agli errori dell'uomo, ma anzi, ha fatto sì di essere così presente, umanamente parlando, da scendere su questa terra attraverso Gesù, attraverso una nascita di un bambino fragile in una culla, che è l'Emanuele, che è Dio con noi, che questo bambino diventato adulto si è offerto, ha dato la sua vita proprio in riscatto di tutti questi nostri errori, dei miei, dei vostri, degli errori di ogni uomo. E lì si ricapitola la vera vita, perché c'è sempre un momento di risurrezione per tutti, per ognuno di noi ragazzi, veramente dovete crederci. E pensate che Gesù è stato condannato, per cui era uno come voi, e ha accettato, ha accolto questa morte, questa volontà del Padre per darci una vita, la vita vera di risurrezione. Per cui sappiate accogliere questa morte di oggi, questo sacrificio anche di una detenzione così, immagino quanto faticosa, ma che ci sarà, c'è un momento in cui potete e dovete ricominciare. Che oggi, l'oggi di Dio, anche lì dove siete, potete essere segni di speranza, d'amore, di verità e di bellezza. Questo è l'augurio che vi faccio. L'oggi di Dio sia vissuto in questa dimensione di mistero, di incarnazione, un Dio che si fa uomo, che guarda al mistero della morte e risurrezione, e di vivere questa che è la vita vera. Un grande saluto e un augurio di buon Natale a tutti. E noi prendiamo questo augurio, lo lanciamo in radio e in televisione. Grazie Elisabetta, seguiteci ancora, sempre su Eduradio. Grazie, a presto. Passeggiare mano nella mano per il centro di questa città, con serenità fermarsi ad ascoltare un uomo che parla tra sé. Ti sei innamorata di me? Mi sono innamorato di te. Cadono le foglie, i pensieri nella mente, non fa male. E tranquillamente, pacificamente immaginare che se in inverno arriverà, noi al caldo si starà. E promettersi l'amore eterno con il dubbio che finir potrà. Lì vicino è caduto un bimbo con la madre che gli griderà. Quest'amore ci insegnerà che cos'è l'eternità. Poi un giorno mi dirai che un figlio nel tuo ventre sta crescendo già. E siccome io non sono Dio, certamente sono il papà. Poserò la mano sulla tua pancia, nel silenzio una lacrima cadrà. Diventeremo vecchi e i figli altri ne faranno. A Natale tutti assieme, insieme si festeggerà. Poi la notte, abbracciati ancora, sulla vita si rifletterà. Quanto il mondo lui continuerà ad andare anche senza noi. E il semino che solo morendo la piantina nascere farà. Chi lo chissà cosa succederà. Oh amore mio, di noi cosa sarà? Ma la serenità e l'amore splenderà su di noi come un d'oro sole che di antiche civiltà era la divinità e credeva all'eternità. Ma allora comunque ritorniamo all'inizio, siccome qui siamo nel regno dell'immaginazione e come ben si sa in questo regno fantastico non c'è né tempo né spazio e nessuna cosa brutta, anche se in fondo nulla è solo brutto, ma di questo parliamo e discutiamo un'altra volta. Dicevo, ritorniamo all'inizio per non perderci per sempre in pensieri troppo profondi. Passeggiare stretti stretti, poi fermarsi a prendere un caffè, con serenità restare ad ascoltare. Siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata anche oggi, rinnovandovi i nostri auguri, vi annunciamo le rubriche a seguire non solo oggi ma anche ovviamente domani, che è sabato, e anche domenica. Quindi oggi che è venerdì abbiamo la rubrica con l'Islam, religione e civiltà, poi Imparo da te, una nuova rubrica a cura dello scrittore e giornalista Adriano Moraglio, in questa puntata abbiamo la storia di Pietro Nicastro, e poi sabato cominciamo con Parole Chiave, la rubrica cura dell'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, a seguire il buddismo e poi a seguire ancora In e Out, che è la rubrica musicale di Massimo Altomare. Per concludere, Libri Dentro con lo speciale di Natale a cura di Diana Bota. La domenica cominciamo sempre con lo Yoga Ratna e Franco Bonisoli e Laura Russo hanno pensato a una sequenza che è ideata apposta per il solstizio d'inverno e per le festività natalizie, intitolata La luce del cuore dissolve il buio. A seguire il FOMAL Chef al fornelletto con la ricetta dei muffin. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto e un augurio natalizio, ma per tutte le festività che vi avvolga, da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota, Paolo Leotti, Ignazio De Francesco e tutti quanti che sono i nostri collaboratori di Liberi Dentro e di Radio TV. Grazie. It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.